Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qua. Eccoci sono 8:18. Qua in questo 11 di febbraio. Oggi prima del santo è un... perché è la Madonna di Lourdes, quindi questo è uno dei punti fondamentali del cattolicesimo, la Madonna di Lourdes e dell'utilizzo politico, perché la Madonna di Lourdes era ovviamente uno dei centri della grande devozione. Queste apparizioni del 1858 apparvero a Pio IX di all'epoca, che era in grande difficoltà, una straordinaria mano dall'alto, perché immediatamente le associò al dogma dell'Immacolata Concezione che lui proclamava per tentare di attirare a sé i cattolici. Lui era molto in difficoltà, aveva deluso tutto il punto di riferimento della trasformazione italiana, e quindi immediatamente si santificò e si mise il bollo sulle apparizioni di Lourdes. Però ovviamente io rispetto tantissimo chi... sai che quando dici così poi la gente dice non è vero che rispetti la fede, non è vero, d'accordo, semplicemente la storia, come no. Però detto questo, si chiama oggi Lourdes Junior, uno dei due campioni di baseball che era fuggito da Cuba per gli Stati Uniti, e questo è certo il segno della Madonna, malgrado l'apertura il comunismo non piace, c'è poco da fare. Non piace. Cari ascoltatori, questo è ancora più abrasivo, come vedete sono abrasivo sia di qua che di là, ma ci sono anche tanti altri santi. C'è Santa Elisa, che è la padrona dei reclusi, e pensando a quanti sono in attesa del giudizio nelle carceri italiane, Santa Elisa, fai qualcosa per loro, veramente, lo dico. Poi c'è San Gobnat, pensa, mai conosciuto uno, però Gobnat Vergine. San Castrese di Sessa, che oggi non farebbero intervenire a Sanremo per evitare di creare problemi sul dibattito dell'Unione Civile, San Gandino di Soissons e anche San Danto. Se qualcuno si chiamasse Danto, è oggi il vostro santo. Va bene, Danto, Santo Danto. Pensa che oggi c'è un articolo del nostro amico Riccardo Ruggeri su Italia Oggi che dice addirittura che il grido che noi abbiamo nella nostra sigla, basta, basta, basta, dice testualmente: quando gli storici si occuperanno di quest'epoca, il basta, basta, basta di Oscar Giannino sarà la sintesi del decennio 2007-2006. Grazie, ma troppo onore. Troppo onore. Non credo proprio. Basta, il basta, basta. Possiamo questo praticamente è la sintesi. Basta! Basta! Incredibile. Basta! Incredibile. Allora, caro Oscar, però, e facciamo anche un appello ai nostri ascoltatori, 800-24-0024, perché abbiamo deciso di dare una mano al centrodestra. Il centrodestra è un po' in difficoltà. Soprattutto a Roma. Rita Dalla Chiesa è stata bruciata, candidata e bruciata nel giro di 24 ore. La Meloni ha detto, era imbattibile. Berlusconi pare che abbia detto: questa è una cazzata della signora Meloni, questa di Rita Dalla Chiesa. Allora adesso spunta Irene Pivetti, secondo Salvini. Salvini dice al Messaggero: non la incontro da 5 anni, ma secondo noi e secondo me è un candidato ideale. Credo che Salvini lo dica per spregio nei confronti dei suoi stessi alleati, dicendo: ho capito, visti i nomi che fate. Ho capito, ma già sono alleati e mi parli di spregio, voglio dire, allora c'è qualcosa che non va. C'è evidentemente qualcosa che non va. Tant'è vero che quando è iniziato questo cosa dicendo sono in difficoltà, io credevo che si sentono tristi, sono in difficoltà, compriamogli un cane, no? No, un secondo ho temuto. No, però vorremmo dire, ma voi chi vorreste candidato, chi vedreste bene candidato per il centrodestra, se volete anche per il centrosinistra, a Roma, a Milano, cioè fateci un po' dei nomi, chiamateci, ditecelo. Bertolaso anche lui si è ritirato, la Meloni vuole Rampelli. Salvini forse dice facciamo le primarie, non si capisce niente. È una bella gara a chi non vuole vincere a Roma, perché la sinistra è spaccata, la destra come si vede tra di loro hanno i veti reciproci. Devo dire, i 5 Stelle sembra che facciano a gara anche loro dal punto di vista nazionale per dare un po' di botte in testa ai locali. Fa paura l'idea di dover governare Roma pochi mesi prima delle politiche, perché come dire ci si scotta. Alla fine torna Ignazio Marino. No, ma questo no, vabbè, non lo so. La mia ipotesi è tronca, decenni tronca. Di tronca. Questa ecco, è la mia ipotesi. Ecco. Va bene, va bene. No, comunque chiamateci e fateci sapere chi vi piacerebbe. A Milano ha sciolto la riserva Stefano Parisi, che è intervista al Corriere. A Milano mi sembra che il centrodestra si vada un po' meglio invece da questo punto. Almeno c'è chiarezza, cioè, c'è chiarezza. Centro-sinistra sarà Sala. A Milano però anche lì sinistra e destra. La crisi dei partiti, che si dica ritorno alla politica, hanno candidati frontrunner che non c'entrano con i partiti, sono indipendenti. No, però a Milano, Milano la citiamo come la città, diciamo, più importante dopo Roma numericamente, cioè centro-sinistra, centro-destra, Bedori per il Movimento 5 Stelle, cioè è abbastanza delineata la questione. Delineata è una cosa senza piatti che sono volati, insomma, non eccessivamente, ecco. A Roma invece sembra un saloon, proprio pim pam. Ma questa è l'eredità Marino, dice, cioè nessuno dopo quello che è successo vuole buttarsi. È l'eredità di vent'anni di disastro di governo della città, e il fatto che a tutti i partiti è chiaro che la gente non ne può più e vuole presentare il conto ad ambo le parti, questo è quello che secondo me è chiaro ai partiti. Sì, un po' questo succede, certo che un nome ci sarà. Alla fine però l'apertura che Salvini ha fatto sulle primarie solo a Roma forse sdogana, perché Salvini sai che mentre la Meloni è per le primarie, Berlusconi ha sempre nicchiato, e Salvini che apre alle primarie solo su Roma potrebbe essere questa un'apertura del centro-destra, che ha sempre visto le primarie in maniera un po' come il fumo negli occhi. Berlusconi le primarie, se fa passare le primarie a Roma è costretto a non poter dire no alle primarie ovunque, ma capisci, al governo, Berlusconi con il termine primarie non si può declinare. Non si può declinare. E quindi no. alla fine no. Alla fine chi la spunterà? Non si sa. Cari ascoltatori, posso dire? Vediamo chi vince a Sanremo. Ruggeri vince a Sanremo. No, questa è la nostra tesi ufficiale, perché noi siamo sostenitori del grande Enrico. Votate Enrico Ruggeri, come ecco, sempre. Però secondo me può essere che ci trarranno ispirazione da quello. Tra l'altro noi avremo ospite invece il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, parleremo certamente della camorra che torna a colpire in maniera molto dura, della militarizzazione Alfano che ha detto mandiamo più l'esercito, anche delle case popolari. Hai visto che tu ne hai scritto sul Mattino e lo chiederemo a De Magistris, ma oggi il Corriere della Sera racconta che tra le case che il prefetto Tronca ha scoperto essere a 200 euro al mese, ce n'è una del Viminale. Cioè del ministero da cui lui dipende. Fontana di Trevi. Ho capito. E l'affitto è 285, sì. Cioè nulla. Ma questo lo Stato il mattone non lo merita, dovrebbe venderlo perché non è capace di metterlo. Ma lo dico paradossalmente, come vedete, è proprio così. C'è l'affittopoli a Roma, c'è l'affittopoli a Napoli. Guardate che dovunque se andassimo a vedere, lo Stato non è capace di. Di gestire significa saper distinguere chi ha bassissimo reddito per edilizia sociale ma incassarlo e vigilare che gli occupanti siano quelli legittimi e non gente che entra là dentro e non esce più, e dall'altra per chi sta in centro, immobili residenziali di pregio o commerciali, invece avere il canone di mercato, perché lì bisogna incassare redditi per il bilancio dei comuni e pagare i servizi. Non sono capaci di farlo. Non sono capaci. Questo cosa vorrebbe dire? Che bisognerebbe farlo gestire dai privati? Certo, è perché i privati più facilmente i politici poi li inchiodano al risultato. Ma siamo precisi. Sempre lì, ma perché non è facile gestirlo? È impossibile da parte del pubblico, perché è tutta una questione di prebende, tutta una questione di non scomodare e lasciare lì le persone. Sì, perché e poi perché ti lascio lì e tu mi dai il voto brutalmente? A Napoli su questi 67.000 sono 200.000 inquilini. A Roma nel patrimonio immobiliare ce ne sono circa 350.000. Fatti il conto dei voti. Guarda, è questo il punto. Cioè, inutile voti. Che ci illudiamo. Tronca, perché va avanti? Perché non deve prendere voti? Perché non deve prendere voti? Il risultato: aboliamo lo suffragio universale. Sto scherzando. È chiaro che non si può tirarne giù questa conseguenza paradossale. Ma il punto è questo: inutile che ci illudiamo. Allora, vediamo, ci chiama Giorgio da Carpi. Buongiorno, Giorgio da Carpi. Carpi, famoso perché siamo in Serie A. Tornando sì, noi. Beh, certo che siete in Serie A. Ci mancherebbe altro. Ditelo in maniera orgogliosa, anche perché temo, purtroppo, sono, per voi che ci sono ragioni storiche per cui Carpi sia grande a prescindere dalla Serie A. Sì, va bene. Carpi è grande, punto. Esatto. Allora, a parte questo, esatto. Io sono di centrodestra, milito in Forza Italia e sono anche, insomma, vice responsabile provinciale, ma a parte questo non c'entra niente. Parliamo di Roma e ci ho anche lavorato un anno a Roma. Roma ha bisogno, secondo me, di un candidato civico, e Marchini sarebbe quel valore aggiunto che permetterebbe al centrodestra di vincere le elezioni, perché centro-sinistra ha sbagliato su tutti i fronti e ha candidato persone assolutamente, secondo me, non più citabili. Sì. Roma è una città cattolica, Marchini non è un cattolico, ma è sempre stato appoggiato da un'area cattolica. Benissimo, ma perché bene, il centrodestra fa... non perché lo vuole? Non piace, non piace a Giorgia Meloni. Vuole, non lo vuole perché non è manovrabile, cioè il problema è questo. Però detto da un responsabile anche locale, Forza Italia l'ho preso 5 volte che lei capisca che questo ma è il punto. Lì pare che Marchini, sa, è una questione di veti incrociati ormai. Marchini piace, piaceva un po' a Berlusconi, si era quasi convinto. Poi all'inizio aveva detto di no, poi si era quasi convinto. Poi Giorgia Meloni dice no, Marchini assolutamente no. Salvini dice no. Allora la Meloni ha detto allora Rampelli, d'altronde tu a Bologna hai messo la candidata leghista, cioè capisce Giorgio, è un po' insomma non... Voi dovete tenere presente che Berlusconi è il numero uno, quindi Berlusconi sarà in grado di fare sintesi. Il problema vero è che no, è il numero uno. No, cioè, detto questo, a me pare che con gli anni sia diventato il re Travicello. Guardi, io non la voglio smentire per definizione, però come si vede, se segue la vicenda, ha detto Marchini, poi ha detto no, poi ha detto sentiamo, poi ha detto, poi quando la Meloni è uscita dal suo studio dicendo domani faccio un nome, ha detto va, sentiamo questo nome. Rita della Chiesa. Poi ha detto cazzata, è una cazzata della Meloni. Insomma, che sia proprio sto numero uno, un po', secondo me si è un po' appannato, ecco, parecchio. No, il problema è arriveremo che... alla sintesi e vinceremo, non va ci sono dubbi. Va bene, va bene. Vincere e vinceremo. Grazie Giorgio da Carpi. Monica da Udine. Monica, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ciao. Ciao. Io suggerirei direttamente un commissario magari tedesco, perché abbiamo sempre dato dimostrazione di non essere in grado di gestire il nostro si paese. Si vede che vivi a Udine, Monica. Io stavo dicendo ti amo, però naturalmente poi viene equivocata la cosa. Cioè, stanno profanando l'Italia in maniera vergognosa. Quindi è inutile provare per l'ennesima volta con qualcuno che non è in grado in partenza di farlo e poi subentrare con qualcun altro, quindi arrecando doppio danno. È meglio mettere direttamente un esterno che sia esemplare per tutta Italia e poi questa cosa del commissario si espanda a macchia d'olio in tutta Italia. Cara Monica, insomma, io colgo ovviamente l'amarezza ma il pragmatismo, insomma, suo a dire. La grande lezione storica, quando i comuni tra il XII, fine dell'XI, inizio del XII secolo, iniziarono ad essere dilaniati tra guelfi, ghibellini, i bianchi, i neri, i cerchi, e così via. Prima di collassare e di arrendersi definitivamente alle signorie, decisero che per un po' bisognava affidarsi a un terzo estraneo, no? Il famoso podestà chiamato da fuori. Allora, nella storia italiana questa, come si vede, è una cosa ricorrente, non è che sia proprio una gran novità. Però in passato erano più saggi di noi. Quindi ogni tanto sospendere per un po' il suffragio universale forse servirebbe. Servirebbe. Ti risparmio, caro Oscar, le varie proposte sugli SMS, eccetera, perché da Totti, Ilari Blasi, Bombolo, Borghezio per Roma. Cioè, capisci, c'è gente, Borghezio per Roma. Beh, però la suggestione Rita dalla Chiesa apre un po', ecco, apre un po' a tutto, questo tipo, cioè... di... Perché non la De Filippi? Ecco. È chiaro. Scusami, De Filippi vince 70%, Ma sei sicuro? Se la De Filippi per sfizio volesse dobbiamo candidarsi a Roma, doveva abbassare ai 16enni il voto, però magari. Ma guarda, a quel punto diventa 90% il consenso. Ma io lo dico sul serio, tu hai dei dubbi che se la De Filippi fosse candidata sindaco. Per carità, cioè, rimane da dire che fa un po' amarezza sentire, ma nel pragmatismo di Monica, il fatto del totale scoramento nei confronti della politica. Dice, ma iniziamo a mettere un commissario esterno a Roma e poi a macchia d'olio commissariamo l'Italia. I casi di Roma, cioè, di Napoli, eccetera, sono effettivamente al disastro della politica pluridecennale, cioè inutile. Non è una questione di essere di parte, di destra o di sinistra, io credo che oggettivamente bisogna riconoscerlo, cioè questi ascoltatori ci danno un po' il polso, non sono rappresentanti statistici, ma è il polso di quello che tanta gente pensa. Ma poi perché da tanto tempo oramai nei sondaggi 5 Stelle sono così alti? In definitiva per questo, sì, credo io. Ma è chiaro, si è detto tante volte che gran parte del successo anche del Movimento 5 Stelle deriva dall'insuccesso e dalla incapacità, con tutto il rispetto, del resto quello che dei 5 Stelle politici fanno e così via. Poi naturalmente non è solo la politica che delude, pensa a questo monsignor Patrizio Benvenuti che hanno arrestato. Certo. Allora facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, perché tra poco avremo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e anche ascoltatori sul tema Roma, e vediamo tra poco. 24 mattino. Allora, cari ascoltatori e caro Oscar, eccoci qua. Continua a chiamarci ovviamente sulla questione di Roma che affronteremo. Ma oggi c'è un bel pezzo, secondo me, un bel articolo di Goffredo Buccini sul Corriere che parla della situazione a Napoli e parla di una situazione di post-camorra, perché i grandi clan scontano difficoltà perché sono con tante persone in carcere. Non si può dire che lo Stato non abbia fatto in questi anni. Però ci sono nuove bande, nuove organizzazioni, nuove, anche molto, molto giovani, molto incontrollabili e incontrollabili. Sparano per le strade, insomma, esatto. Sembra un meccanismo molto diverso da quello del ferreo controllo che preferiva evitare queste manifestazioni così esplicite sul territorio. E sappiamo che il ministro Alfano ha proposto una, diciamola così, militarizzazione, cioè più militare. Che noi secondo me abbiamo già giustamente criticato, perché non mi sembra la risposta ai militari per le strade, però che già ci sono a Napoli ma rafforzare questa presenza dell'esercito. Vogliamo chiederlo al sindaco di Napoli, che è Luigi De Magistris, è con noi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, intanto lei lo ha già detto, ma insomma ribadisce il fatto che la militarizzazione non è secondo lei la soluzione, cioè Alfano sbaglia a porla così? Alfano ha parlato un linguaggio condiviso da tutti noi al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e poi un linguaggio un po' diverso, un po' ad uso politico, tra virgolette, nei media. Cioè, nel senso che da questo punto di vista ci vogliono un rinforzo della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia Municipale. L'esercito può servire e serve a tutelare obiettivi sensibili per evitare che lo facciano le forze di polizia ordinarie, per esempio porti, aeroporti, stazioni, tribunali, ma chi pensa che l'esercito possa essere utilizzato per le indagini sulla camorra o sulla criminalità cosiddetta comune, vuol dire che non capisce nulla di criminalità organizzata. Cioè, forse è quell'espressione far star zitte le pistole serve l'esercito. Ma detta così può anche essere corretta, nel senso che là in comitato è stato detto l'esercito sì, purché a tutelare gli obiettivi sensibili. Poi siccome c'è anche chi, per distogliere il tema, dice no, per sconfiggere le mafie dobbiamo mettere i carri armati nelle strade, a Napoli pensiamo che invece bisogna procedere con la militarizzazione della città attraverso la cultura, attraverso la scuola, attraverso la riappropriazione degli spazi abbandonati e per evitare, come dicevate voi, che delle baby gang, dei giovanissimi atteggiandosi a boss possano seminare terrore con le pistole in alcuni momenti della città. A me però una cosa ha colpito, quando il questore di Napoli Guido Marino, e lo ricorda oggi Goffredo Buccini nel suo pezzo, dice che i cittadini assistono, i tantissimi cittadini onesti assistono rassegnati e silenti a questa cosa. Ecco, lei sindaco è d'accordo? Cioè c'è un po' una rassegnazione e anche un silenzio da parte della cittadinanza onesta? Ma anche qui è stata, diciamo, estrapolata una frase, il questore dal suo punto di vista fa bene a stimolare sempre tutti a collaborare, però la fotografia mia è questa. Un'antimafia sociale dei fatti che in questi ultimi anni è cresciuta tantissimo, gente che ci mette la faccia, si schiera, denuncia, partecipa, sottrae aree che erano piazze di spaccio facendole diventare piazze di vita, di socialità, di aggregazione. Oggi io vedo questa fotografia, guardate, una Napoli che sta vivendo una stagione di riscatto culturale, turistica e di energie vitali che non ha mai avuto nella sua storia. Dall'altro lato un aumento di omicidi di camorra che sono dovuti in parte alla disarticolazione dei clan originari da parte di magistratura e forze dell'ordine, dall'altro proprio perché molti spazi sono stati sottratti. Cioè oggi a Napoli la camorra, per esempio, non ha più nessuna forma di contatto con chi amministra la città e con la politica, ha degli spazi chiusi, non riesce a entrare in alcune aree dove la società cosiddetta civile si è riappropriata di spazi. Ieri diceva un ex camorrista pentito in un dibattito molto bello tenuto in un'area periferica di Napoli che la camorra sta mettendo in atto anche dei colpi di coda, li fa con violenza perché vuole dimostrare che esiste. Però Napoli resta la più grande piazza di spaccio di coca e stupefacenti da tutto il Mediterraneo, è un punto di riferimento e batte per volumi d'affari stimati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura tutte le altre piazze mediterranee. Cioè il fenomeno che genera poi, oltre al controllo del territorio, il pizzo eccetera, il più delle risorse, continua a essere fortissimo. E questo che dico, malgrado i colpi portati a segno e malgrado questi nuovi fenomeni che sono anche in non contatto diretto con le vecchie famiglie della camorra, E evidentemente c'è una vastissima intercapedine di risorse che rimane totalmente controllata. Questo è un po' il punto interrogativo dal punto di vista delle indagini da condurre, degli ambiti da controllare, da riprendere di legalità, perché questi traffici da qualche parte passeranno, sono così ingenti. Ho visto delle stime, quelle di cui parlava Isaia Sales nelle sue interviste nei giorni fa, che fanno rabbrividire e preoccupare davvero. Ecco, voglio dire, da questo punto di vista non invidio mai chi deve amministrare la cosa pubblica in quelle parti d'Italia, perché c'è da avere paura, ecco, non saprei dove mettere le mani. Lei che dice? Ma sicuramente Napoli è una delle città più difficili. Quando venne il sindaco di New York 2 anni fa mi disse: secondo me è più difficile amministrare Napoli che New York, quindi tra le città sicuramente è più difficile. Il tema diretto della sicurezza, come voi sapete, non è competenza del sindaco. No, la sconfitta della camorra non è domani. Io dico che si fanno dei passi in avanti, una battaglia lunga, non bisogna mollare e bisogna puntare alla rivoluzione culturale, lo diceva Falcone, altrimenti se si arrestano 100 persone e non c'è un'attività sul territorio forte, il giorno dopo ne avremmo 100, magari anche più violenti. E infatti veniamo a questo punto invece alle cose di cui il sindaco si deve... E ci sono due questioni. La prima che vogliamo toccare con lei, con un paio di domande, è quella che è esplosa sul Mattino in questi giorni. Io sono anche editorialista, mi avrà letto scrivere e commentare la vicenda di Affittopoli a Napoli, dopo quella di Roma, è eclatante. E poi una domanda la facciamo anche su Bagnoli, che è un'altra delle questioni aperte, perché lei ha una questione aperta di scontro rude con il governo dopo il decreto Bagnoli, non va alla cabina di regia. Però cominciamo da Affittopoli. Qui ci sono, diciamo, due questioni. Da una parte, quello che sembra, quello che il Mattino ricostruisce, è che quando, a fine 2012, con la sua giunta, finisce la gestione dei privati affidata all'impresa Romeo e subentra quella in-house del comune di Napoli, quindi con una società 100% controllata dal comune, a cui viene girata la gestione del patrimonio immobiliare, stiamo parlando di oltre 60.000 unità immobiliari di tipo vario e diverso a Napoli, quello che sembra è che da dicembre... e dalla consegna 4 tir degli atti di questo patrimonio passano 2 anni fino alla fine 2014 prima che si veda qualche segno che la società del comune ha iniziato a elaborare davvero questi dati. Tant'è vero che questi dati non vengono elaborati, prima si compra un software da 30.000 euro, poi un altro da 100.000 euro con un contratto pluriennale di 100.000 euro. Insomma, però alla fine passano anni in cui quello che è evidente è che il comune sembra proprio che non stia facendo nulla. Adesso l'assessore della giunta dice: no, noi in questo 2015 ci siamo rimessi un pochino a lavorare sulla faccenda. Però resta il fatto che, siccome i casi dicono a Posillipo 11 euro al mese, la vista su Capri 24 euro al mese, dalle unità immobiliari di edilizia sociale, e la stima è che uno su due non paghi, cioè il 48% non paghi, quello che appare è un quadro, devo dire la verità, per quello che dai giornalisti e dai colleghi del Mattino stanno scrivendo, non è che il comune sembra che proprio stia brillando o che abbia brillato fin dal giorno in cui con orgoglio voi avevate detto: non lo facciamo gestire i privati perché siamo meglio noi. Secondo lei, come ci dica, non si poteva far meglio tutta questa storia? Allora, la ringrazio di questa domanda, cercherò di essere sintetico e mi auguro efficace. Si può, comincio dalla fine, si può sempre fare di meglio, ma la fotografia non è questa così sinteticamente riprodotta. Cioè, nel senso che noi all'inizio dell'insediamento avevamo l'intera gestione del patrimonio immobiliare affidata a un soggetto privato e il Comune disconosceva nella maniera più assoluta, e questo è di una gravità inaudita, quale fosse il suo patrimonio immobiliare. Quindi la prima attività che si è dovuto fare, e che chiaramente non si fa in pochi giorni, è quella di riacquisire la disponibilità, il censimento, i software, insomma avere la fotografia dell'intero patrimonio immobiliare. Dall'epoca ci siamo messi a lavorare e oggi a Napoli non c'è nessuna Affittopoli, anzi siamo sostanzialmente, alla fine del mio mandato avremmo concluso questo procedimento, messo in regola tutti immobili che anche il Mattino riconosce essere gestione della giunta, delle giunte precedenti, in regola. In regola che significa? Che non esistono casi di persone, come dire, abbienti, ricche, che sfruttano patrimonio immobiliare del comune. Ci sono delle situazioni di necessità che sono valutate in quanto situazioni di necessità, cioè persone povere, e quindi là si procede alla regolarizzazione, nel senso che si paga il fitto secondo previsto dalla legge. Per chi non lo paga, siccome abbiamo verificato situazioni che ci sono in alcune aree di in cui le case non erano in regola, spesso si soggiaceva al camorrista di strada o al politicante di turno che dava sicurezza alle persone dicendo non vi preoccupate, qua nessuno mai vi toccherà. Noi stiamo regolarizzando tutte queste situazioni, e quello che abbiamo fatto nel patrimonio immobiliare, è quello che abbiamo fatto nei cimiteri, è quello che abbiamo fatto nell'edilizia popolare. Quindi sfido chiunque a dimostrare che a Napoli c'è Una cosa, siccome i casi documentati dai colleghi, cioè, ripeto, 11 euro al mese a Posillipo o la vista a Capri a 24, o le 7 sedi di partiti e sindacati che si aggiungono. Ma queste le abbiamo ereditate, però. Gianni, no, ma no, ma io sto dicendo la messa in regola. Dice abbiamo messo in regola tutto. Stiamo mettendo in regola. Ah, ecco, c'è molto da fare. Ecco, no, questo no, voglio dire. Non è ma che... io ho detto, il percorso non si fa in una città come Napoli all'orgia del. Noi le abbiamo fotografate tutte. Non esistono più partiti che avranno quella situazione. Diverso, e stavo concludendo il discorso, era ad esempio per le associazioni culturali, per quelle che fanno attività sul territorio, dove abbiamo previsto non affidamenti diretti come si faceva nel passato, ma invece delle procedure che consentano a chi fa attività meritoria sul territorio, per esempio aggregazione, lotta alla camorra, contro la devianza, di poter avere delle fortissime agevolazioni. E quelle case, diciamo che certe volte, come lei diceva, di fronte vista mare, cioè, sono case di edilizia popolare, quindi là si procede secondo si sta procedendo secondo quelli che sono i canoni previsti dalla legge, quindi non c'è nessun privilegio, nessun abuso. Abbiamo registriamo trovato l'impegno, ma perché su Bagnoli ce l'ha così? Certezza, vedremo alla fine i risultati, però voglio dire, ma perché con Bagnoli è così frontale lo scontro con il governo? Visto che Bassolino, che naturalmente è in campo per la campagna elettorale a Napoli, e Bassolino dice no, ma il sindaco De Magistris si sta prendendo una bruttissima responsabilità. Ma come, il governo vara uno stanziamento, un quadro per uscire dalla stasi su Bagnoli e il sindaco non manda nessuno della giunta alla cabina di regia col governo? Perché? Lei dice che ha uno schema alternativo, ce ne può parlare? Sì, anche qui è una materia complessa, cercherò di essere... noi su Bagnoli non è che si fa uno scontro a prescindere con il governo. Noi abbiamo firmato il 14 agosto del 2014 un accordo col Presidente del Consiglio e con l'all'epoca Presidente della Regione, in cui il governo si impegnava a fare le bonifiche e poi si attuava il piano su Bagnoli attraverso gli organi deputati dalla Costituzione, appunto il Comune e la Regione. Pochi giorni dopo quell'atto e quell'accordo il governo l'ha completamente disatteso e stracciato e ha commissariato Bagnoli, cancellando completamente la città di Napoli, il Consiglio Comunale, il Sindaco e i poteri che secondo la Costituzione, pianificazione urbanistica e quant'altro, aspettano sono materia a lei di esclusiva competenza del Comune. A quel punto noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati avanti, nel senso abbiamo approvato un piano su Bagnoli che è molto interessante, l'abbiamo approvato in giunta, in consiglio comunale, ne abbiamo discusso in città con i cittadini, l'abbiamo sottoposto al governo e il governo ci ha tenuto un anno e mezzo bloccato, impedendo il rilancio di Bagnoli e parlando del nostro piano, perché ha detto che voleva commissariare, che era urgentissimo commissariare. Ma quindi il problema secondo lei è che Renzi è perché lei è il sindaco che fa un'altra strada? No. Talmente urgente, talmente urgente che ci ha messo un anno e mezzo a nominare questo commissario. I commissariamenti che prevedono l'abolizione di qualsiasi regola sono pericolosi, perché loro stanno in realtà, questa è la cosa grave, individuando il piano su Bagnoli non con gli organi previsti dalla legge, ma con dei soggetti privati individuati senza procedura di evidenza pubblica, ma attraverso quelli che sono i titolari dei suoli di Bagnoli. Un'ultima cosa che mi farebbe piacere dire a voi su Bagnoli: il tutto quando nasce, perché lei mi chiede perché Renzi fa questo, il tutto nasce perché nel 2 dicembre 2013 io emisi un'ordinanza molto importante, chi inquina paga, individuando nella Fintecnica, che è una società dello Stato e un gruppo imprenditoriale che è Cementir, coloro che avevano inquinato Bagnoli con l'ex Italside e dovevano risarcire un sacco di soldi. E quindi lei dice Renzi per non far pagare loro? Questa ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato e là è successo, secondo me, è il punto, perché coloro che dovevano risarcire, e parliamo di 150-200 milioni di euro, avranno, secondo me, detto in qualche modo, noi qua per poter risarcire e per poter stare nella partita vogliamo avere le mani libere. Mani libere significa aumentare cubature di cemento, non rispettare. Beh, è un'accusa grave quella che sta facendo. Aspetta, che ci ho detto, datemi qualche secondo in più, perché io credo che questa è una vicenda non grave, gravissima, perché invece di decidere il futuro di Bagnoli, comune, regione e governo, lo sta decidendo un commissario nominato in violazione di legge, tant'è che c'è un ricorso, attraverso dei soggetti privati individuati non con procedura di evidenza pubblica. Questo è qualcosa che io nella mia vita di magistrato e adesso di sindaco onestamente non avevo mai visto. Quindi il mio dovere è denunciarla e andare avanti sul rilancio di Bagnoli, perché noi non ci fermiamo certo di fronte a un abuso di potere di questa portata. Vabbè. Nel salutarla, sindaco, non si capisce cosa abbia lei con Bassolino, insomma, qualche screzio c'è stato. Nulla, semplicemente Bassolino è quello che ha distrutto l'immagine, non solo l'immagine, di Napoli e della Campania nel mondo, diventando il monarca della spazzatura, e ancora adesso paghiamo le conseguenze di quella stagione sulle bollette, sull'immagine. Quindi lui si è voluto ricandidare, vediamo se vincerà le primarie, non vedo l'ora di sfidarlo in una campagna elettorale difficile ma che sarà entusiasmante. Vabbè, ce lo fa da scaramantico un pronostico per Juve-Napoli? Lo chiediamo a tutti, guardi, non è che lo chiediamo dopo aver dichiarato l'abbiamo chiesto a Juventini, ieri c'era Fico, napoletano, gliel'abbiamo chiesto. Quindi, sentiamo il sindaco di Napoli. Lei, sindaco, come finirà sabato? La domanda c'è, ma la mia risposta è sempre la stessa, non faccio previsioni in genere mai, ma in particolare sulle partite. Poi sulle cose partita, serie, figurarsi. Questa partita Juve-Napoli è troppo importante. Troppo, è troppo seria per fare un pronostico. Purtroppo è vero. Va bene, la ringraziamo, grazie sindaco. Grazie veramente, a voi. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. C'è Giuseppe da Pesaro che ci chiama? Sì, Giuseppe, buongiorno. Giuseppe. Qua, buongiorno. Eccoci. Sulla destra, su quale argomento? No, sui sindaci. Sì, eccoci. Sì. Allora, la mia idea è questa. Voi siete burloni, anch'io cerco di un po', metterla un po' in burla, ma non tanto, perché se ci pensiamo bene, a Roma un prelato, soprattutto se è un porporato, che sia vicino a Bergoglio, diventa sindaco, ma non perché si propone alle elezioni, ma perché di nomina di qualcuno, tipo quel commissario che è stato fatto per no, di nomina di qualcuno. È un commissario pontificio, torniamo al potere temporale. Non sto scherzando. No. Che nomina dei consiglieri comunali o degli assessori sempre nell'ambito ecclesiale, per 5 anni per me mette a posto Roma. Così pure a Napoli un bel capitano dei carabinieri con 3-4 finanzieri, 3-4 poliziotti e nell'assessorati più importanti e qualche persona giusta nell'amministrazione, nella pubblica amministrazione, nella PA, cioè che faccia lavorare le persone. E si sistema tutto. Per Palermo, me, sì, ma... lei ha una soluzione anche per Palermo, Giuseppe? Per Palermo potrebbe andare bene anche Napoli, cioè lo stesso concetto di Napoli. Cioè voglio dire, ci sono delle situazioni, no, che bisogna prendere di petto. Quindi anche lei è dell'idea, sospendiamola il suffragio universale in alcuni posti. Perché sospendiamo il voto. Andiamo al punto. Andiamo al commissario. Però guardi che se interroga i romani su come il governo pontificio si è comportato e anche ai tempi della Repubblica, ai tempi del sacco di Roma, non... i cardinali e le gerarchie, vedrà che i romani non la dice, sono non otterrà tanti voti, dell'idea. Ma non penso che passi attraverso il voto. No, quella, ma la soluzione non sono dell'idea che diciamo, il cardinale è un uguale buon governo. Vabbè, ecco, Fabrizio da Padova, ce la fa in 10 secondi per cortesia? In 10 secondi, buongiorno, dica. Ti sentite? Sì. Ecco. E niente, voglio solamente dire, dopo Marino il deserto, nel senso abbiamo fatto tanto per mandare via il povero Marino e chi verrà dopo sa già che farà peggio e quindi non si vuole scottare, perché essere mandato via per 2 buche e una ricevuta in albergo... E voglio dire, penso che possa capitare a tutti quelli che ci stanno ricandidando. Dice, dopo questo nessuno vorrà ributtarsi, Fabrizio. È una lettura interessante anche questa. Va bene, ci dobbiamo fermare, caro Oscar. Ci dobbiamo fermare. Tu prima mi hai fermato quando parlavo della truffa al Monsignore, ma ho sbagliato io perché non avevo visto il timer. Però oggi, che è la Madonna di Lourdes, speriamo che questo Monsignore arrestato con la truffa da 30 milioni di euro capisca che Dio c'è per perdonare, ma la giustizia sulla terra per mandarlo in galera. Punto. A domani.